Sorge così l'ombratile struttura della forma assoluta, un comodo senza guide, uno splendore senza fiamma, un'azione in cui non pulsa alcun vigore. A chi pensa così riesce inafferrabile la profondità dell'opera d'arte e il criterio per misurarne la vera grandezza. Egli non la concepisce più ormai quale essa è intrinsecamente, superamento e confessione. E non riuscirà neppure a rendere giustizia alla stessa forma alla quale soltanto egli è pure inteso, poiché il senso della forma sta nell'essere espressione di un contenuto, modo di esistere di un essere. L'anima della bellezza è la verità. Chi non guarda questa luce, alla luce di ciò che realmente è e realmente vale, costui degrada il suo gioco gioioso eppure tanto profondamente serio a vano dilettantismo. In ogni creazione schietta e grande v'è qualcosa d'eroico, perché qui un fatto interiore si è conquistato, nonostante ogni resistenza, la sua espressione verace. Qui è stata combattuta una buona battaglia. Qui un essere consapevole della sua parte migliore ha respinto da sé tutto ciò che di estraneo gli si era abbarbicato. Ha ridotto in chiara disciplina tutti gli elementi confusi che vi turbinavano. Si è sottomesso alla propria legge fondamentale. Un mondo interiore ha così dato testimonianza di ciò che esso era e doveva essere, e di ciò che in esso si celava quale sua verace missione e funzione essenziale. Ma tutto questo diventa per l'esteta vano divertimento, spielerai. E c'è ancora dell'altro. L'estetismo, nel suo fondo, è senza pudore. Mentre la vera bellezza è casta. Questa parola non deve essere presa in un senso superficiale. Essa non riguarda la questione se questa o quella cosa si possa fare, dire, rappresentare, bensì significa piuttosto quest'altro. Ogni manifestazione del proprio intimo deve essere sostenuta da un imperativo interiore, giustificata da valori eterni, da essi permessa, anzi comandata. Ma il criterio di questa liceità e obbligatorietà si radica soltanto nella verità oggettiva del contenuto ideale e in quella soggettiva della schietta esperienza interiore. Al contrario, una manifestazione di sé che cerchi il suo fondamento nel mero fatto di rivelarsi, nella stessa forma ed espressione, non ha più dignità. Siamo condotti ancor più oltre da queste riflessioni. Nonostante l'impulso più autentico e la giustificazione nella più schietta verità spirituale, ogni vera interiorità rifugge dal manifestarsi, proprio quando essa ridonda di ogni dote positiva. È anzi questa la dolorosa necessità di ogni vita interiore, di potersi liberare dall'oppressione del proprio mutismo solo esprimendosi, e tuttavia di ripugnare a codesto uscir da se stessa, per tema di perdere con ciò quanto di più nobile possiede. La pienezza di ogni vita interiore sta nell'attimo in cui essa, lievitando, si dischiude in forma adeguata al suo essere, ma subito essa sente, come in un contraccolpo doloroso, che qualcosa di ineffabilmente prezioso s'è perduto irrimediabilmente. Questo fatto avviene in ogni creazione artistica genuina. Come un rossore per la parola certo pronunziata volentieri, a cui però segue quale segreto rimprovero un disagio spesso indefinibile, sorgente da lontananze mai conosciute fino a quel momento, come un rapido rinserrarsi delle labbra che vorrebbero riprendersi la confessione fatta. E chi intende davvero intravede abissi ancora inespressi e ricchezze certamente serbate dietro a ciò che abbandonandosi ha preso forma. Proprio questo dare e possedere ancor altro, questo apparire e ritrarsi di luminose profondità, questo lottare per l'espressione, questo vittorioso e giubilante prorompere insieme con un rinchiudersi pudicamente doloroso, proprio tutto ciò costituisce il fascino più delicato del bello. Ma tutto questo, tutta la bellezza contenuta quasi gemma primaverile nella creazione genuina, va perduta per l'esteta senza reverenza e riesce impercettibile agli occhi miopi di chi cerca la bellezza per la bellezza, l'espressione per l'espressione. Chi aspira a una vita in bellezza, innanzitutto non può voler null'altro che essere vero e buono. Se la sua vita è vera, essa riesce anche bella di per sé, allo stesso modo che la luce irraggia non appena la fiamma è accesa. Ma se uno cerca per prima cosa il bello, in tal caso gli accade come a Edda Gabler, di rimanere cioè alla fine soprattutto nauseato. Allo stesso modo, per quanto strana possa suonare l'affermazione, neppure l'artista nell'atto di creare può cercare la bellezza come tale, quando almeno sotto il nome di bellezza intenda qualcosa di più profondo che una certa grazia delle forme esteriori o un orpello piacevole. Egli deve piuttosto impegnare tutte le forze dell'anima sua nel diventare vero e giusto, nel cogliere in schietta veracità e nel vivere personalmente quanto riempie il mondo interiore ed esteriore. E di conseguenza egli, nemico com'è di ogni effetto appariscente e di ogni verità, deve esprimersi così come deve essere, senza neppure una linea di più. Allora anche la sua opera, nel caso che egli sia veramente un artista, riesce bella, deve riuscire bella. Ma se l'artista cerca di evitare codesta via certamente faticosa della verità e vuol conquistare la forma partendo dalla forma, in tal caso il suo prodotto sarà un'opera vana capace solo di abbagliare. E chi vuol cogliere un uomo o una creazione artistica nella sua bellezza, non diciamo gustare, parola antipatica che pone la bellezza allo stesso livello di una leccornia e trae la sua origine da quel mondo senza dignità che combattiamo. Chi dunque vuol penetrare nel loro intimo segreto deve partire dalla loro anima. Innanzitutto, e in linea di principio, farà bene a non soffermarsi troppo sull'espressione e sull'armonia dei suoni e dei colori, bensì piuttosto a cercare di cogliere l'interiore verità di questo organismo vivente. Per questa via, al momento giusto, egli avvertirà come questo mondo si è tradotto nella sua forma, nel complesso e nei particolari, e sperimenterà il lieto prodigio di questa fioritura. In tal modo egli sarà penetrato nell'intimo nucleo della bellezza, forse senza riconoscerla, fosse pure soltanto perché gode la felicità di sentire un'esistenza piena e chiara. Chi invece persegue la bellezza per se stessa, se la vede sfuggire e insieme sconvolge la propria vita e la propria opera, perché ha peccato contro l'ordine fondamentale dei valori. Quando invece uno non vuol che vivere sinceramente nella verità, esser cioè vero e dire la verità, e a essa tiene aperta la propria anima, costui incontra la bellezza senza che la cerchi, insperatamente, come il luminoso evento di una vita ricca, casta, compiuta nella sua forma. Colleghiamo adesso quanto finora dicemmo alla liturgia. Incombe il pericolo che anche qui si affermi l'estetismo, che la liturgia sia prima esaltata, poi apprezzata esteticamente, particolare per particolare, nelle sue preziosità. Infine, che la santa bellezza della casa di Dio venga gustata con raffinatezza da competenti, fino al punto da ridurre la casa della preghiera, sia pure in modo nuovo, a spelonca di ladroni. Ma questo non può essere e a motivo di colui che abita in essa e a motivo dell'anima nostra. Non per creare delle immagini, frasi armoniose, cerimonie suggestive e solenni, la Chiesa ha edificato l'Opus Dei, bensì, poiché non si prefiggeva altro scopo all'infuori dell'onore di Dio, per i bisogni più seri delle nostre anime. Qui si è dovuto esprimere ciò che costituisce la vita intima dell'umanità cristiana, la vita divina nella persona del Cristo, nell'atto in cui si inserisce nella creatura per opera dello Spirito Santo, la rinascita di questa creatura a un'esistenza nuova, realmente e veramente rinnovata nell'essere e nella vita. La crescita, lo sviluppo, il dispiegamento di questa vita nuova per virtù di Dio nel sacramento e nella grazia e per contributo dell'uomo nel sacrificio e nella preghiera. E tutto questo nel rinnovamento costante, misteriosamente reale della vita di Cristo nel decorso dell'anno ecclesiastico. Liturgia è appunto il fatto complesso per cui tutto ciò si compie, si manifesta, viene insegnato, comunicato, accolto in forme determinate della parola, del gesto, degli oggetti di culto, del simbolo. di realtà pertanto dell'avvicinamento della creatura reale al Dio vero, della questione spietatamente seria della salute eterna, di questo si tratta qui anzitutto e soprattutto. Nessuna bellezza qui doveva essere rivelata, bensì l'umanità perduta del peccato doveva trovare la sua salute. È della verità che qui si tratta, del destino delle anime, della vita vera, anzi, in ultima analisi, dell'unica vita reale. Questo doveva essere manifestato attraverso ogni mezzo e forma d'espressione. Ed ecco che tutto ciò è assurdo a bellezza. Nessuna meraviglia, giacché colui che qui ha agito è lo spirito insieme della verità e della potenza espressiva. Ciò che dentro ferveva si è espresso nella più schietta veracità. Tutta la pienezza di vita qui si è tradotta adeguatamente. Le profondità abissali sono emerse in limpide forme. Uno splendore di eccelsa maestà è così irradiato da questa nascita della verità, e non poteva essere altrimenti. Ma per noi la liturgia deve essere innanzitutto questione di salvezza. La sua verità e il suo significato vitale devono occupare per noi il primo piano. Quando recitiamo le preghiere e i salmi, dobbiamo lodare Dio e pregarlo, e nulla più. Quando partecipiamo alla Santa Messa, dobbiamo saperci vicini alla fonte della grazia. Quando assistiamo a una consacrazione sacerdotale, non dobbiamo vedere nella cerimonia null'altro che un elemento dell'umanità investito dalla grazia di Dio. Non si tratta dunque per noi di riti intensamente espressivi e di parole possenti per stile, quasi stessimo dinanzi a un palcoscenico dello spirituale, bensì di avvicinarci un po' di più con la realtà della nostra anima alla realtà di Dio per esigenze nostre, spietatamente serie che promanano dalla nostra intima personalità. Solo quando agiamo così ci viene elargito anche la sua bellezza. Solo quando viviamo la realtà liturgica con la serietà della più intima partecipazione ci si rende manifesto se e come e con quale perfezione questo contenuto di vita si sia espresso. Solo quando muoviamo dalla verità della liturgia ci si aprono gli occhi così da permetterci di percepire quanto essa sia bella. Questo può avvenire in gradi diversi a seconda della nostra sensibilità maggiore o minore per il mondo estetico. Forse è solo una sensazione di compiacenza, non peraltro molto consapevole, per la profonda rispondenza di tutte le parole e dei riti alle esigenze del mondo interiore, il senso di una tranquilla naturalezza, la coscienza che tutto è in ordine ed è proprio come dovrebbe essere. Sopra e oltre questa coscienza indistinta, ecco rifulgerci un bel giorno un offertorio che nella cerimonia è incastonato come un gioiello. La struttura di un oremus diventa trasparente e noi sperimentiamo la preziosa meraviglia di una profondità assieme limpidissima e abissale. Oppure, una parte dopo l'altra, ci si rivela la possente successione delle alte cime della Santa Messa, come emergono dalla nebbia diradantesi e pareti e dossi e vette d'una montagna pure e luminose, così che a noi sembra di vederle per la prima volta. Ci può accadere allora di lasciar cadere il libro e di indugiare in una lunga sosta, ravvivata di letizia ma anche pervasa dal brivido della reverenza, quando intuiamo come le verità supreme che compiono tutte le nostre aspirazioni hanno trovato qui la loro parola. Ma codesti sono brevi momenti che noi dobbiamo prendere quando vengono come trovati, come donati. Al contrario, per la vita quotidiana vale anche in questo caso la regola: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Tutto quindi anche l'esperienza del bello.